24 mattino di Alessandro Milan. 7:22 minuti, eccoci qua cari ascoltatori, concludiamo la settimana di 24 mattino in diretta fino alle 9. Di cosa parliamo oggi nel nostro sondaggio? Parliamo dei tanti parlamentari che cambiano partito durante la legislatura, è sempre successo, succede anche in questa legislatura. Vi chiediamo, secondo voi dovrebbero dimettersi? Un parlamentare che cambia partito dovrebbe dimettersi? Votate su radio24.it, nell'home page ci trovate bianco o nero, ne parliamo alle 8:30 ed ora iniziamo dai giornali in edicola. In primo piano. Venerdì 11 marzo è il giorno dell'approvazione, ieri in Consiglio dei Ministri, della riforma della giustizia di cui si occuperà Oscar Giannino alle 9. Allora, le aperture dei giornali. Beh, Il Sole ha una bella anticipazione, l'anticipazione dei dati, delle dichiarazioni del 2009 dei contribuenti italiani. Il fisco perde i redditi più alti. E vedremo le anticipazioni delle nostre dichiarazioni dei redditi. E poi tutti gli altri aprono sulla giustizia. Via libera del governo alla riforma per il Corriere. Giustizia, la rivolta dei magistrati per Repubblica. Giustizia, via la riforma per Il Messaggero. Per La Stampa, giustizia, riforma tra le proteste. Chi sceglie titoli un po' diversi è Libero, Rai, battaglia sugli stipendi, i soldi alle star della TV. È un gran classico. Mentre Il Fatto Quotidiano, Berlusconi chiede un'indagine anche noi, ritorna sulla vicenda esclusiva anticipata ieri dallo stesso Fatto, vale a dire il tentativo denunciato di cambiare l'anagrafe in Marocco, la data di nascita di Ruby da parte di alcuni misteriosi emissari. Le segnalazioni che voglio dare in apertura sono queste dal secolo XIX, visto che abbiamo detto dell'anticipazione del Sole sui redditi. Beh, c'è una notizia che riguarda gli evasori. Il fisco spia Facebook per stanare gli evasori. State attenti anche se siete sulla nostra pagina 24 mattino su Facebook e magari mettete la vostra foto di una bella Lamborghini o di una Ferrari, eh? Perché Ilario Lombardo racconta che ieri il direttore dell'Agenzia delle Entrate Attilio Befera ha detto: entro 10 giorni decideremo se usare i social network negli accertamenti fiscali. Perché magari scrive Il Secolo il profilo del perfetto evasore, single, disoccupato, vive in un piccolo appartamento in affitto, sembra il ritratto di un trentenne precario di oggi, ma magari uno poi ha la Ferrari in garage e su Facebook non si trattiene nel mettere quella foto. E attenzione, perché ora il fisco può decidere di fare come si fa in altri paesi, anche scrutare, spiare, osservare Facebook, i vostri profili e dire: ah, ma com'è che questo c'ha una Ferrari e la mette in bella mostra? Com'è che c'è questa bella vacanza su un panfilo da parte di questo utente di Facebook? Andiamo a controllare un po'. Il fisco spia Facebook per stanare gli evasori. Attenti. La seconda segnalazione dall'Unità, pagina 17, leghisti lasciano aula appena suona l'inno. Marco Tedeschi racconta di quello che è successo, almeno stando alla denuncia di un consigliere del PD provinciale di ieri, Roberto Caputo. L'assessore alla provincia di Milano all'istruzione Marina Lazzati e i consiglieri leghisti, appena vengono intonate le note dell'inno di Mameli, abbandonano l'aula del consiglio provinciale di Milano. Tra l'altro c'erano degli studenti invitati per l'iniziativa Un giorno con l'assessore, proprio con l'assessore Marina Lazzati, e questo consigliere del PD dice: c'è la scena surreale, assurda, mentre suonava l'inno l'assessore e i consiglieri leghisti si sono alzati abbandonando l'aula, mentre gli studenti sono rimasti lì in piedi mostrando un rispetto alle istituzioni di cui l'assessore Lazzati si è mostrata priva. Leghisti lasciano l'aula appena suona l'inno. E non è ancora il 17 marzo, fino ad allora, prima di allora ne vedremo di altre, di belle o di brutte. La pubblicità. In primo piano. E allora tutti i giornali puntano sulla riforma della giustizia che ha avuto l'approvazione del Consiglio dei Ministri, ora ci sarà tutto l'iter parlamentare. Non voglio entrare molto nei dettagli di quello che prevede la riforma, tutti i giornali ne parlano. trovate sul Sole 24 Ore, pagina 8. Il Corriere mette le modifiche alla carta in 16 articoli, un'intera pagina a pagina 6. Non entro nei dettagli perché poi Oscar Giannino ne parlerà alle 9. Voglio magari pizzicare qua e là qualche articolo che mi ha incuriosito su questa riforma. Beh, intanto Francesco Verderami sul Corriere della Sera racconta quella che è anche la vittoria, la parabola in continua ascesa del guardasigilli del ministro Angelino Alfano, da vice Ghedini a via Arenula, cioè al ministero, a ministro rispettato e incaricato a salire sul colle. D'altronde, scrive Francesco Verderami, sembra un po' il predestinato, quello su cui Berlusconi poggerà la spada sulla spalla. D'altronde, verso il guardasigilli il premier si è mosso da un sentimento paterno. Ne fa menzione ogni volta che parla di Angelino, raccontando un episodio. Quando conobbe i suoi genitori, il padre di Alfano lo ringraziò: «Presidente, vorrei ringraziarla per come si sta prendendo cura di mio figlio». E Berlusconi rispose: «Se mi consentite, anch'io lo sento un po' mio figlio e vorrei condividerlo con voi». E poi c'è il racconto a pagina 2 e 3 di questa ascesa continua, appunto, di Alfano. Uno che per anni è stato considerato il vice di Ghedini, quello che oggi lui chiama scherzosamente «mia moglie». Oppure ricorda Francesco Verderami di quando Alfano ebbe un battibecco con Tremonti, sempre per la questione dei soldi in Consiglio dei Ministri. Presentò il piano carceri Alfano, per il quale serviranno tempo e soldi, e Tremonti rispose: «Di tempo quanto ne vuoi». Ma insomma, poi Angelino Alfano ha avuto le sue conquiste anche politiche. E poi la conclusione dell'articolo: attento Angelino, useranno ogni mezzo per far fallire il progetto, ma Angelino sull'avviso c'è già da tempo, da anni si tiene gli scontrini del bar, non si sa mai. Questo sul Corriere della Sera, mentre piovono già tantissime critiche. Armando Spataro, PM che coordina l'antimafia, l'antiterrorismo, a Milano, intervistato da Donatella Stasio sul Sole 24 Ore, pagina 9, dice: «Sono tecniche astute per aggirare la carta, è un modo per controllare i magistrati da parte dell'esecutivo». Così anche Gerardo D'Ambrosio, storico capo del pool, o meglio membro del pool di Mani Pulite, perché Berlusconi ha detto: «È una riforma che volevo dal 94 ed Ambrosio, in questa intervista alla Stampa, Francesco Grignetti dice: "Silvio in politica proprio grazie a Tangentopoli. Ricordo come le sue televisioni appoggiavano Mani Pulite. Chi non ricorda le telecronache di Brosio del TG4, fisso sotto il Palazzo di Giustizia e doveva interrompersi ogni volta che il tram passava perché non si capivano le sue parole?". Insomma, diciamola tutta, chiede Francesco Grignetti: è un ingrato Berlusconi che deve tutto a Tangentopoli. Beh, i cittadini erano stufi della corruzione dei partiti, risponde D'Ambrosio. Il consenso per i magistrati era alle stelle, le televisioni di Berlusconi cavalcavano il vento. Poi, quando accadde che Mani Pulite lo toccò, allora è girato il vento. E il suo ruolo in politica nasce perché si creò un vuoto. Se non ci fosse stata Mani Pulite, credo che il fenomeno Berlusconi non ci sarebbe stato proprio. Così Gerardo D'Ambrosio. Mentre politicamente Franceschini su Repubblica dice in un'intervista: «È una cinica truffa, un'operazione pericolosa, questa della riforma, alla quale reagiremo in Parlamento con la mobilitazione democratica». Insomma, il clima è quello che è. Poi ne parlerà Oscar Giannino. Il clima è quello, pare, già di un fronte molto molto esteso, sia politico che anche dei magistrati, con l'Associazione Nazionale che ha già preannunciato un possibile sciopero di opposizione dura a questa riforma. Veniamo alla questione politica che oggi pone sui giornali un po' qual è quello che è anche il tema del nostro sondaggio, perché si parla sempre di questi parlamentari che cambiano casacca, cambiano partito in Parlamento. Il premier ottimista sul Corriere della Sera, pagina 8: avremo 330 deputati. Intanto il rimpasto è congelato, no? Il rimpasto, siccome ci sono probabilmente troppe poltrone da assegnare rispetto alle persone, o meglio poche poltrone da assegnare rispetto alle persone che le vorrebbero, il rimpasto però è congelato. Però il premier ottimista, 330 deputati, il tema del nostro sondaggio è proprio questo: i parlamentari che cambiano casacca o partito durante la legislatura, secondo voi dovrebbero dimettersi? Mettiamo al condizionale, è una questione di opportunità, perché per la legge, per la Costituzione non devono farlo. Ma secondo voi è una questione di opportunità? Pare che siano già 130 quelli che in questa legislatura hanno cambiato partito rispetto a quello col quale sono stati eletti. Ne parleremo alle 8.30, ma insomma, tra l'altro c'è un giallo che riguarda una possibile nuova fuoriuscita, quella di Giulia Cosenza, che fa parte dei Finiani di Futuro e Libertà e potrebbe tornare nel PDL. E qui però c'è anche una vicenda nella quale è anche un po' imbarazzante, un po' delicato, sicuramente difficile entrare, perché pare che tutto sia dovuto, questa crisi, a una crisi sentimentale. Perché Giulia Cosenza ha avuto un figlio da poco dall'ex ministro Andrea Ronchi, dunque una love story in Parlamento. Finisce la love story con Ronchi e la Finiana Cosenza torna nel PDL, così titola Repubblica con Carmelo Lopapa. Cioè pare che la ragione sia proprio questa, nella quale, ripeto, è un po' imbarazzante anche entrare, è doveroso forse fare un passo indietro, se non che però è una questione che riguarda tutti noi, perché è una questione pubblica. Cioè pare che sia finita la love story tra Giulia Cosenza e Andrea Ronchi, con Giulia Cosenza che dice: non posso più stare nelle stesse aule, negli stessi banchi dove è lui, e lui è rimasto tra i Finiani, e allora lei deve tornare nel PDL. Questo sembra la motivazione, no? Anche per l'unità. Mal d'amore, Cosenza rompe con Ronchi e lascia Futuro e Libertà. Succede anche questo, d'altronde sono vicende della vita. Il Fatto Quotidiano invece torna per il secondo giorno, ci sono polemiche politiche sulla vicenda di ieri, l'esclusiva di ieri, vale a dire ieri il Fatto Quotidiano ha raccontato la storia di due emissari misteriosi, tre per la verità, che sono andati in Marocco per cercare di falsificare, ma l'ufficiale dell'anagrafe di questo paesino ha detto di no, di falsificare la data di nascita di Ruby, anticipandola di 2 anni per farla risultare maggiorenne. Mistero marocchino, oggi ci torna il Fatto Quotidiano con Gianni Barbacetto. Berlusconi denuncia, chiede un'indagine sul tentativo di modificare la data di nascita di Ruby. Bravi, questo sarebbe quello che ha detto, questo è quello che ha detto Nicolò Ghedini, al cronista del Fatto Quotidiano, Gianni Barbacetto. Bravi, avete fatto il vostro lavoro. Noi abbiamo semplicemente comunicato che il Presidente ci ha dato mandato di depositare una specifica denuncia per accertare se la vicenda che voi raccontate è vera oppure no. In ogni caso, è una storia che surrettiziamente tende a danneggiare il Presidente del Consiglio. Poi più avanti Frattini fa una battuta non male. Dice, quando Barbacetto scrive sul Fatto: Karima dunque è nata certamente il 1 novembre 1992. Ghedini però dice: bisogna vedere se la data di nascita è diversa da quella di registrazione. Anche in Italia Enzo Ferrari è stato iscritto all'anagrafe in un giorno diverso da quello della sua vera nascita. Dunque Ghedini lascia aperta questa possibilità, chi lo sa. Vabbè, lasciamo la politica, veniamo, anche se poi di politica c'è ancora qualcosa, vedremo, ma veniamo all'anticipazione del Sole 24 Ore sui contribuenti del 2009, l'anno più duro della recessione. Ecco anticipato che cosa? Le dichiarazioni dei redditi: i ricchi d'Italia calano del 7%, a pagina 3 del Sole. Marco Mobili: il 90,2% dei contribuenti italiani dichiara al fisco meno di 35.000 euro. Io l'ho riletto 3 volte, il 90,2%, la quasi totalità, meno di 35.000 euro. Solo lo 0,17% delle persone fisiche denuncia redditi superiori a 200.000 euro in Italia, lo 0,17%. Sono le nuovissime elaborazioni del Dipartimento delle Finanze. I ricchi d'Italia sono in calo del 7%, sono ovviamente le elaborazioni di chi ha presentato il modello unico 2010-730, sono stati denunciati dal sostituto di imposta col modello 770. Questa flessione dei ricchi è il primo dato che il Sole 24 Ore ci è legato ovviamente al momento della crisi. A pagina 2 ci sono anche regione per regione, il reddito medio, come cala, come aumenta. In Lombardia, per esempio, è 22.430 euro, giusto per prendere una regione del nord più rappresentativa. Nel Lazio 21.440 euro. Al sud, in Calabria, 13.860 euro. Il reddito medio, più 2,9% rispetto all'anno precedente. In Sicilia 15.380 euro. Ma tutti i dati li trovate sul Sole. I ricchi d'Italia calano del 7%, ma soprattutto, ripeto, il 90% degli italiani dichiara il fisco meno di 35.000 euro. Il traffico. In primo piano. A proposito di soldi, non degli italiani, o anche degli italiani se volete, perché sono i soldi di chi viene stipendiato in Rai. Ieri Giuliano Ferrara ha fatto sapere che guadagnerà 3.200 euro a puntata e qualcuno si è arrabbiato, qualcun altro no. Ieri anche in redazione qualcuno diceva: ma come 3.200 euro a puntata? Ma chi se ne frega? Io dico, ma in realtà il tema è molto dibattuto. Su Libero, l'apertura: Rai, battaglia sugli stipendi, attaccano Ferrara perché guadagnerà 3.000 euro a puntata, ma Biagi ne prendeva più del doppio, per non parlare di Fazio, 34.000 euro, Santoro, 19.000, Floris, 17.000. Eccoli qua, i video stipendi. È un gran classico che ogni tanto torna su Libero. Ferrara, il giornalista Rai che pesa meno, anche il titolo non indifferente. Anche l'Unità è come generosa mamma Rai, 1.000.000 per Sgarbi in TV. Il Vittorio Sgarbi Show slitta, però pare che costerà a puntata circa 1.000.000 di euro. Insomma, c'è tutta questa polemica su quanto costano, su quanto sono pagati. Sta di fatto che, insomma, è una polemica che a me non appassiona molto. Sono stipendi che sono dati, sono anche a livello di quote di mercato, no? Sono questi gli stipendi che viaggiano in TV. In ogni caso, dà un po' fastidio magari a qualcuno parlare di se stesso, ma dobbiamo fare oggi una parentesi, perché il Cacciari che ieri abbiamo avuto, che ha sparato a zero contro i cittadini rompiballe, ai quali ogni tanto i sindaci fanno un'ordinanza, questo esercito di infanti incapaci di mettersi d'accordo su tutto, beh, oggi conquista le pagine dei giornali, incredibile, siamo in prima pagina del Corriere della Sera, Fabrizio Roncone reintervista, va a risentire Cacciari dicendo: ma lei a Radio 24 ieri ha detto che i cittadini a volte rompono le balle, e Cacciari conferma, dice: guardi, hanno delle pretese assurde, sì, diciamo, rompono proprio il cazzo, insomma, e quindi Cacciari non desiste per nulla, Libero, città di infantili rompiballe, così Cacciari ringrazia Venezia, che tra l'altro scrive che ieri il cronista, che poi sarei io, era imbarazzato, mentre ero tutt'altro che imbarazzato, semmai molto spassosamente divertito. I cittadini dei rompiballe, pagina 9 del giornale, con Giancarlo Perna che dice: io sto dalla parte di Cacciari. E addirittura siamo anche sul Foglio, l'editoriale, penso forse anche uno dei tre editoriali di Giuliano Ferrara, parlando a Radio 24 come se trasmettesse da Radio Londra, l'ex sindaco Cacciari si è preso la libertà di dire quel che pensa con un tono, un accento quasi commovente. In un paese dove si liscia sempre il pelo del gatto per il suo verso, dove politici e giornalisti si travestono da vestali dell'opinione pubblica, il sindaco di Venezia ha detto che voleva fare delle cose importanti, qualcuna l'ha fatta, ma poi le quotidiane richieste della cosiddetta società civile, un esercito di infanti incapaci, proclivi a rompere le balle al sindaco, gliel'hanno impedito. Insomma, scrive Giuliano Ferrara, che è una divertente, spensierata dichiarazione offensiva soltanto per chi ha la coda di paglia. Mi tocca essere d'accordo anche con Giuliano Ferrara. Succede che cosa ancora di politica internazionale? Vi voglio segnalare la Libia, sempre, che trovate sui giornali. Segnalo solo due articoli della Libia. Beh, intanto il fatto che Sarkozy ha detto: pronti a bombardare. La Francia pare pronta a dire: bisogna buttare le bombe. Ma segnalo sul Corriere della Sera il figlio di Gheddafi, colui che era stato sempre dato come il più moderato, Saif al-Islam, Sentite ora come parla, non abbiamo bisogno di nessuno, la Lega Araba può andare all'inferno. Diciamo ai ribelli di Bengasi che stiamo arrivando, non lasceremo il petrolio ai banditi. Molti leader occidentali che oggi hanno sposato le ragioni dei ribelli un tempo venivano a pietire i contratti da noi. In particolare Monsieur Sarkozy. Le navi da guerra italiane e francesi attraccate a Bengasi sono la dimostrazione che è in atto una nuova occupazione coloniale. Faremo fuggire i ribelli sulle navi britanniche che hanno attraccato a Bengasi, sempre che la regina d'Inghilterra non voglia mandare a combattere in Libia i suoi soldati col gonnellino e la cornamusa. Questo Saif al-Islam, insomma, dichiarazioni che molto molto agguerrite, e che dice di lui Marta Marzotto, una che lo ha frequentato a lungo. Ci sono anche foto di Marta Marzotto abbracciato, qualcuno dice, il giornale dice, avvinghiata a Saif al-Islam. Ma no, ma lui è un moderato. Saif al-Islam è un moderato. Ad esempio, non va mai in giro coi macchinoni, tipo la Ferrari. Quando viene a trovarmi in Sardegna, col fratello di Afef, lo sa che macchina usa? Una Panda. Questa è la descrizione di Saif al-Islam, il figlio di Gheddafi, data da Marta Marzotto sul giornale. E allora, cara contessa, lei ha proprio un debole per questo Saif. Forse perché la questione libica è entrata a far parte degli argomenti più gettonati nel salotto bene? Sono contraria a qualsiasi forma di violenza. Ciò che sta accadendo in Libia mi fa molto impressione, ma è un argomento troppo impegnativo per me. Posso solo dire che la Libia è un paese leader nell'estrazione del petrolio. Ah beh, però insomma. E quando c'è di mezzo il greggio, i problemi aumentano. Ma comunque Marta Marzotto dice Saif al-Islam è un modesto, è un moderato. E lo dimostra il fatto che viene da me a trovarmi con la Fiat Panda. Ci fermiamo su questo. Ricordate il sondaggio che potete votare su radio24.it. Vi chiediamo, i parlamentari che cambiano partito durante la legislatura, secondo voi dovrebbero dimettersi? Votate, ne parleremo poi alle 8.30, mentre vi ricordo che alle 8.20 avremo ospite per l'intervista per parlare di Partito Democratico, il sindaco di Bari, Emiliano, nostro ospite nell'intervista. Ora al giornale radio 24 mattino, l'intervista. Ben ritrovati da Alessandro Milan alle 8.20 minuti. Il nostro protagonista dell'intervista di oggi è il sindaco di Bari, Michele Emiliano. Sindaco, buongiorno. Buongiorno. Esponente del Partito Democratico. Senta, ci spieghi cos'è questa iniziativa dei democratici del sud che lei vuole lanciare? È molto semplice, è una assemblea di tutti i delegati regionali del partito. Il Partito Democratico ha già una struttura federale, ha delle assemblee regionali che sono, diciamo, la base del partito, e noi vorremmo tentare di dimostrare che noi abbiamo una capacità politica autonoma. Non è semplice in questo momento, nel quale lei immagini che il commissario del Partito Democratico di Napoli è un onorevole del Nord, il commissario del Partito Democratico della Calabria è un altro onorevole del Nord. Sembra quasi che il PD sia rientrato in un'atmosfera piemontese nella quale senza comandanti di altro luogo sia impossibile governare il territorio. Vuole un po' più di presenza del Sud, no? Far sentire. Ma soprattutto riprendere in mano il nostro destino. Non è una rappresentazione esatta quella che si fa dei territori meridionali, delle città meridionali. Per esempio Bari è una delle città probabilmente con il miglior bilancio d'Italia, Salerno la stessa cosa, ci sono comuni della Campania che fanno la raccolta differenziata al 70%, ci sono i comuni del Cilento, quelli dove purtroppo c'è stato l'omicidio di Angelo Vassallo, un grandissimo sindaco, che sono dei luoghi dove i sindaci del Partito Democratico tutelano l'ambiente, lottano contro la mafia. Questo viene poco valorizzato. Senta, ma è vero che lo vorrà chiamare Terroni Democratici? Beh, naturalmente questa sarà il suo nome in codice, diciamo così. Il codice. Come tutti sanno, sono un magistrato dell'antimafia, quindi ho questa fissazione poi di dare i nomi alle operazioni. È chiaro che Operazione Terroni Democratici. È chiaro che Insomma, a Bersani questo nome non piace molto, perché tu, quindi noi in maniera assolutamente ossequiosa lo cambieremo probabilmente il nome formale. Ma però ormai... lei dice: io sono orgoglioso di essere Terrone, quindi non... Guardi, solo chi è molto sicuro di sé trasforma in un insulto in una denominazione. Senta, ma ha sentito Chiamparino? Perché Chiamparino ha detto: il PD così non ha futuro. Io e Sergio siamo molto amici. Quindi lei è d'accordo? Io tento sempre di coinvolgerlo nelle mie iniziative, perché sono certo, ho fatto anche un viaggio di recente in Piemonte che è stato molto, molto importante per me. Ho conosciuto non solo persone straordinarie, ma soprattutto ho dimostrato che noi stiamo tentando, ovviamente consapevoli anche dei tanti limiti e degli errori commessi, stiamo tentando di mostrare che l'Italia ha anche al sud energie per reagire. Ma mi dica, ha ragione o no Chiamparino quando dice così, il PD non ha futuro così? Beh, insomma, Chiamparino, come posso dire, deve prendere una decisione da questo punto di vista, nel senso che ci sono delle giornate in cui è più ottimista e delle giornate in cui lo è meno. Io, avendo sin da bambino, diciamo, fin da quando avevo 25 anni, ero alla procura di Agrigento, le immagini, quando noi le partite con la mafia le perdevamo tutte. Ciò nonostante, io voglio andare in quell'ufficio perché poco era importante se avessimo o non avessimo possibilità di vincere. Io sapevo da che parte stavo. Adesso col Partito Democratico bisogna fare la stessa cosa. Non credo ci sia molto altro. Quindi c'è un po', è un po' troppo. Bisogna stare lì dentro, anche chi come me, proprio in un partito, soffre, perché è inutile dire che non ho una. Nessuno ha costruito dentro di me una cultura di partito, sono un disastro da questo punto di vista, faccio arrabbiare tutti, rompo le scatole, spesso dico le cose sbagliate al momento sbagliato, sto facendo autocritica, Dica Bersani per favore. No, magari ci ascolta, chi lo sa. Però è evidente che non abbiamo altro strumento che il Partito Democratico, è l'unico luogo dove dal basso, come sta capitando a noi, senza permesso di nessuno, si può organizzare una grande manifestazione. Certo, ieri il responsabile dell'organizzazione del PD Stumpo mi ha chiamato molto allarmato, diciamo, da quello che stava accadendo, per quello che ho potuto intuire, e mi ha detto che improvvisamente il PD ha deciso di fare una carovana del sud con Bersani, che a questo punto addirittura verrebbe giù da noi. Ho detto va benissimo, ha ottenuto già un risultato. Del 10 noi la facciamo lo stesso. Vabbè, però ha ottenuto un risultato. Le devo fare ancora due domande, sindaco. Sì. La prima è: il PD dovrebbe secondo lei votare per l'arresto di Tedesco, ex assessore regionale, ora senatore, per cui pende una richiesta in tal senso? Guardi, come è noto la vicenda è nella nostra carne, nel senso che è una vicenda pugliese, è una vicenda che riguarda il presidente Vendola, l'amministrazione regionale e anche me, perché lei deve immaginare che per un certo periodo io sono stato anche segretario del Partito Democratico. E quindi? Ed è una vicenda onestamente dalla quale emerge un modello politico assolutamente inaccettabile, la decisione di arrestare una persona va lasciata alla magistratura. Dal mio punto di vista, se i deputati non dovessero trovare, i senatori anzi, non dovessero trovare nell'ordinanza nessun elemento che faccia pensare ad una persecuzione di natura politica nei confronti di Tedesco, dovrebbero lasciar decidere i magistrati. Quindi votare sì, insomma, per l'arresto. Certo. L'ultima cosa, qua ieri ha fatto scalpore, avevamo Cacciari, oggi è ripreso da tutti i giornali, ha definito qui i nostri microfoni dei cittadini, degli infanti incapaci di mettersi d'accordo, per cui ogni tanto un sindaco fa un'ordinanza, così dice, così non mi rompete più le palle, insomma. Anche per lei sono così cittadini. Religiosa ammirazione per Cacciari sin da quando ero studente di giurisprudenza, perché potete immaginare che parliamo di uno degli uomini, degli intellettuali più importanti d'Europa probabilmente. Il quale però ha avuto anche la forza e il tempo di fare il sindaco, e lo fa, questo è stupefacente, alle volte affrontando i problemi con la semplicità e con la quale noi siamo costretti a fare la stessa cosa. Io in questi giorni ho dovuto fare, per far dormire delle persone, delle ordinanze nei confronti di alcuni locali isolati in quartieri residenziali, quindi non in luoghi della movida, dove ovviamente si assembravano centinaia di persone all'esterno, sì, di questi locali, impedendo il sonno in, sì, blocchi. Ma Cacciari ha detto basta, cioè, sono degli infanti i cittadini, si mettono d'accordo invece di andare al sindaco. Devo dire che la reazione che io ho avuto a queste ordinanze in qualche caso è di tipo infantile. Per esempio, qualcuno mi ha detto: sindaco, primo, non rompere le scatole perché la strada è nostra, secondo, compra i doppi vetri a questi rompiscatole che vogliono dormire e basta. Ah, vabbè. Quindi siamo... è chiaro che, peraltro, tutto questo, come è noto, io lo affronto nelle mie nottate su Facebook. Su Facebook, non avendo durante la giornata il tempo di fare assemblee dalla mattina alla sera, abbiamo con la tecnologia superato questo ostacolo, sì, e ho dovuto parlare con centinaia, anzi forse migliaia di cittadini, lottando, come si fa in un dibattito televisivo su Facebook, per convincerli che il diritto al sonno delle persone che lavorano durante il giorno è un diritto, è un diritto. Da parte. La ringrazio, sindaco, buona giornata. Voi, Michele buona Emiliano, giornata. Il sindaco di Bari, esponente del Partito Democratico, per essere stato con noi. Ora ci fermiamo alla pubblicità e poi parliamo sempre di politica. Sono molti i cambi di casacca di partito durante la legislatura. Secondo voi, la domanda è semplice: un parlamentare che durante la legislatura cambia partito dovrebbe dimettersi oppure può rimanere lì? Può, per la legge, la legge sì lo consente, ma opportunità vorrebbe che si dimettesse? Questo vi chiediamo. Votate il sondaggio su radio24.it, se no 800 24 00 24, tra poco. 24 mattino, 8:34 minuti. La domanda che poniamo oggi è semplice: secondo voi i parlamentari che cambiano schieramento politico all'interno di una stessa legislatura dovrebbero dimettersi? È il nostro sondaggio. Io sono o blanco o nero, gris non voglio essere in mia vita. Bianco o nero? Articolo 67 della Costituzione. Ogni membro del Parlamento rappresenta la nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Dunque la legge suprema, la Costituzione, garantisce, insomma, chi cambia casacca, come si suol dire, non devono per legge dimettersi. Quello che vi chiediamo noi è: dovrebbero dimettersi secondo voi per una questione di opportunità? Cioè, a dire che per ora il 90% dei nostri ascoltatori, non so se anche sull'onda un po' di un'antipolitica, dicono di sì, dovrebbero dimettersi. Ne vogliamo discutere con Mario Aiello del Messaggero. Buongiorno Mario. Buongiorno. Voglio salutare anche l'onorevole Luciano Sardelli, che è presidente del gruppo di Iniziativa Responsabile, i responsabili come sono definiti. Onorevole, buongiorno. Buongiorno a voi. E saluto anche Salvatore Curreri, professore di diritto costituzionale all'Università Core di Enna. Buongiorno professore. Buongiorno a tutti. Allora, intanto Mario Aiello, la conta, quanti sono quelli che fino a ieri, perché poi c'è un giallo anche legato a una possibile fuoriuscita di Giulia Cosenza, che magari racconteremo, quanti sono quelli che hanno cambiato casacca in questa legislatura? Beh, guarda, io ho fatto varie volte i calcoli, e calcolando le andate e il ritorno, le riandate e il ritorno, sì, come spesso è successo, ecco, il caso della Cosenza potrebbe essere uno di questi. I passaggi sono stati 134. Però 134. E siamo a metà. Siamo a metà della legislatura. Se il ritmo fosse questo, cioè già siamo al record. Ma se il ritmo fosse questo, vabbè, proprio sarebbero delle cifre stellari. Però da lì che poi, insomma, è un numero, secondo me, che andrebbe messo in rapporto poi anche alla produzione legislativa. Cioè, si cambia tante casacche, si cambiano, ma nel frattempo si fanno poche leggi. Questi passaggi, se fossero così in una normale fisiologia della democrazia e del lavoro parlamentare, dovrebbero essere finalizzati a far funzionare meglio le istituzioni, il Parlamento in questo caso, e invece si sono state prodotte solo 37 leggi dall'inizio della legislatura. Quindi mettere in relazione queste due cose. È passato più tempo a cambiarsi la camicia e la casacca che ha scrivere dei testi così. Sì, no, ovviamente poi ci sono le accuse, trasformismo, su un titolo di uno dei tuoi recenti articoli sono definiti i deputati erranti, no? Che cambiano, sì, alcuni vanno, sì, torna. Però non so, qua abbiamo onorevole Sardelli, lei è presidente dei responsabili, no? O la terza stampella, come viene definita, insomma, il gruppo di iniziativa responsabile. Intanto, sì, oddio, qualcuno li ha definiti anche D'Alema i mercenari di Berlusconi, un po' tra l'ironia, vi ha offeso secondo lei? Ma è volgare, una definizione assolutamente impropria politicamente. D'Alema ha fatto il Presidente del Consiglio in forza del passaggio di alcuni parlamentari dal centrodestra al centrosinistra nel 98. Quindi, dice, quindi no, voglio dire che lui si scandalizzi, insomma. Senta, è una contraddizione, forse soffre a poca memoria o forse fa solo propaganda. La Costituzione vi garantisce in questo, garantisce chiunque, appunto, non c'è il vincolo di mandato. Adesso ne parleremo anche con il professor Curreri, che ha fatto delle proposte, sì, interessanti. Però, onorevole Sardelli, non c'è anche questione di opportunità di mettersi se uno cambia partito? Ma innanzitutto mi permetta di dare la vera versione dei numeri di cui ha riferito il dottor Aiello. Allora, noi abbiamo in questo momento diciamo 30, un po' oltre 30 deputati che dal centrodestra sono passati, diciamo, al centro, al centrosinistra, in Futura Libertà, nel momento per l'autonomia, due liberali democratici per qualche caso sparso, e abbiamo 11-12 deputati che dal centro-sinistra sono passati al centro-destra. Questi sono i numeri. Il cambio di casacche è avvenuto abbondantemente da destra al centro, a centro-sinistra, sì, e sì, molto meno da centro-sinistra a centro-destra. Ci sono quelli che vanno poi e tornano. Purtroppo la comunicazione, la propaganda fa passare tutta un'altra idea del fatto, e va bene. Poi i 130 di cui parla Aiello sono i passaggi all'interno dei gruppi. Io sono stato eletto col centro-destra. Vabbè, insomma, diciamo, alcuni vanno, tornano. E poi ho attraversato dei gruppi, ma sempre da centrodestra. Voglio dire, vabbè, non cambia niente, questo per i regolamenti della Camera, la possibilità di poter mantenere la propria autonomia. E dopodiché, però, le dimissioni no, cioè non è una cosa. Ma se fosse così, cioè i padri costituenti avranno pure dei motivi per aver nella Costituzione garantito la libertà di espressione e di mandato del parlamentare. Se così non fosse, sarebbero 5 persone, i presidenti di gruppo, non so chi, a decidere per il paese. Ma infatti lei tira in ballo la Costituzione, giustamente mi dà, diciamo, l'assist per andare dal professor Salvatore Curreri, che di recente in un articolo su Europa ha dal titolo "Come bloccare i cambi di casacca" ha fatto anche delle proposte. Professore, intanto la Costituzione è la Costituzione, e quindi c'è poco da discutere. L'articolo 67 dice che un parlamentare agisce senza vincolo di mandato, dunque rimane lì. Però c'è un però, professore? C'è un però molto grande, perché la Costituzione bisogna leggerla tutta, non bisogna soltanto fermarsi a questo ritornello della libertà di mandato. Leggerla tutta significa cominciare a leggerla dall'articolo 1, che dice che la sovranità appartiene al popolo, che la esercita nei limiti e nelle forme previste in Costituzione. E l'articolo 49 dice che i cittadini esercitano questa sovranità non soltanto quando votano, ma la esercitano quotidianamente attraverso i partiti politici, che sono espressamente riconosciuti dalla Costituzione. Allora, la nostra democrazia non è una democrazia aristocratica, ottocentesca, in cui gli ottimati, i migliori, scelgono loro cos'è il bene dei cittadini. Non è una democrazia che va dall'alto verso il basso. Come in ogni ordinamento democratico, si parte dal basso, dalla volontà dei cittadini che votano persone non in quanto tali, ma perché candidate in partiti politici. Sì. Allora il parlamentare che viene eletto non viene eletto soltanto per le sue qualità personali, e poi, diciamo, con una legge elettorale come quella che abbiamo, in cui non c'è nemmeno voto, esatto, di preferenza, manco viene eletto adesso. Nemmeno viene eletto, viene semplicemente nominato. Ma certamente hanno un mandato di partito, nel senso che vengono eletti perché candidati e si riconoscono in un programma politico. Ora, il fatto che un parlamentare decida di abbandonare il partito per passare ad un altro partito, o addirittura cambiare schieramento, passare dalla maggioranza all'opposizione o dall'opposizione alla maggioranza, è certamente un'alterazione, un cortocircuito, sì, nella rappresentanza politica, e quindi da questo punto di vista dovrebbe essere certamente mitigato, dovrebbero introdursi delle misure che in qualche modo, non dico neghino la libertà del parlamentare, ma certamente la circoscrivino, in modo tale da evitare questi fenomeni che poi vengono fatti in nome della rappresentanza nazionale. Talvolta qualche parlamentare si è fatto trovare con le mani nella marmellata, mi ricordo il caso Bampo esploso nel 1997, quando intercettato questo parlamentare dichiarò apertamente che cambiava contro pagamento di una somma di denaro. Beh, ma anche questi sono i rumors che ci sono e le polemiche su quello che sta succedendo. Però onorevole Sardelli, e poi voglio tornare anche da Mario Aiello, cioè la questione è questa che pone il professor Curreri. Anche con la legge elettorale attuale, cioè nella quale io non scelgo il parlamentare, uno potrebbe dire, beh, se si sceglie il parlamentare io scelgo quello perché lo conosco, considero che lui abbia le qualità per rappresentare il popolo, se cambia partito vabbè, ma io credo in lui e quindi ho eletto lui. Qui invece noi votiamo, diamo la preferenza a un partito o a una lista, e se il parlamentare è nominato poi mi cambia partito, cioè è un po' una fregatura, perché io lo volevo rappresentante di quel partito, l'unica cosa che posso scegliere. Guardi, io non sempre è così, io sono stato eletto in un partito piccolo, un partito del sud, quindi 40.000 voti presi in Puglia l'hanno dati a me capolista, non certo Berlusconi, cioè voglio dire, non vale in assoluto. Io sono stato eletto anche ad Ernani, dove c'è il voto di preferenza. Ogni sistema elettorale ha i suoi vantaggi e i suoi svantaggi, e sicuramente il sistema con le liste bloccate, che vince pure in Germania, funzionerebbe molto meglio se nei partiti ci fosse più democrazia, più partecipazione e quindi i candidati e gli eletti fossero meglio valutati, diciamo, dai cittadini. Sì. Vabbè, insomma, però su questo non è che mi abbia risposto molto, cioè nel senso io... Come no? Ma cioè, no, ma... Guardi, cioè io non posso votare Luciano Sardelli, no? O meglio, posso votare Luciano Sardelli perché viene messo in lista da un partito, no? E quindi, cioè se io mi fidassi ciecamente di lei, do il voto a lei, il mandato a lei, poi lei cambia partito, ma io ho creduto in lei, no? Credo in lei, quindi se lei ha cambiato partito credo che sia la scelta giusta comunque per rappresentarmi. Ma qui io voto un partito, non è che voto Luciano Sardelli. Sì, questo è vero, guardi, però io torno a dire, io ho fatto pure molte campagne elettorali, voto di preferenza, ho stato eletto alla regionale un paio di volte. E il voto di preferenza è stato tolto per una valutazione di compromissione, di possibilità di comprare anche il voto in alcune regioni, in alcuni territori, sì. Per il pericolo di voto di scambio con la criminalità organizzata, cioè, ci sono pro e contro in ogni sistema. Sicuramente questo sistema funzionerebbe molto meglio se i partiti fossero più partecipati e più democratici anche nella selezione degli eletti. Vabbè, devo andare alle informazioni sul traffico, poi riparto da Mario Aiello, perché insomma se tirate in ballo anche la questione di soldi, di denaro, no? Le accuse ci sono state di avere comprato anche il passaggio di alcuni parlamentari, tra poco. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Il 90% dice sì, un parlamentare che cambia casacca dovrebbe dimettersi. Mario Aiello del Messaggero, la questione dei soldi, del denaro, le accuse, tutto non provato, insomma, tutto. Però sono voci molto insistenti, no? Le accuse, i mercenari, cambio casacca per denaro. Tutto non provato, ma tutto molto plausibile. Anche con delle storie così piccole e minori, si racconta per esempio alla Camera che Antonio Razzi, non so se vi ricordate, uscito dall'Italia dei Valori, Che è passato nel fronte berlusconiano, eletto all'estero, ex operaio, emigrato in Svizzera, con una storia molto bella alle spalle, con un mutuo. Così. Sì, e poi si è parlato del mutuo della sua casa in Abruzzo, ma adesso pare che uscirà per Mondadori l'autobiografia di questo di questo valente parlamentare con una vita alle spalle, come vi dicevo, molto così interessante. Di chi è la Mondadori? Cioè, stiamo appunto arrivando lì, cioè, siamo addirittura per un libro. Ecco, no, questo è solo un caso minore. Poi, ripeto, come hai detto anche tu, per ora non c'è nulla di provato. No, esatto, se non il fatto, però qui stiamo parliamo del passato, che due leghisti che si rifiutarono di fare ribaltone anti-berlusconiano, poi negli anni successivi sono risultati, non sono stati rieletti, gli era stata promessa la rielezione nelle file di Forza Italia, non sono stati rieletti, ma hanno avuto contratti di consulenza con il gruppo parlamentare. Questa vicenda era anche emessa. Uno dei due, e non ridiamo, si chiama Gabbana. Gabbana. Perché c'è anche questo trasformismo, i Volta Gabbana. No, quando voi parlavate prima così del vincolo di mandato e tutte quelle cose, leggevo tempo fa un'analisi politica di un gruppo Open Polis, si chiama. Sì, sono stati anche i nostri ospiti qualche giorno fa. Ecco, viene fuori che solo 167 deputati degli oltre 600 poi fanno seguire agli impegni elettorali i fatti, le azioni, l'impegno coerente con quegli impegni che avevano preso. Ah, cioè, tu insisti su questo, perché giustamente, insomma, uno fa il parlamentare. Cioè, si fanno poi alla fine i fatti propri. E in un sistema elettorale con le preferenze, secondo me questo sarebbe più difficile. Sì. Questo sì, voglio sentire Giorgio da Padova, che eleggiamo lei ad ascoltatore, perché sono tanti, ma il tempo è poco. So che lei, mi hanno detto, è contro le dimissioni, è vero? Sì, pronto? Giorgio, sì. Ah, ecco sì. Niente, se a prima vista il fatto delle dimissioni sembrerebbe la soluzione del problema, mi sembra proprio di no. No. Perché quando il governo è al limite dei voti, facendo mancare il suo appoggio, fa cadere dei governi. Quindi secondo me la soluzione giusta sarebbe quella che il parlamentare in questione sia qualcosa da far valere nelle sue osservazioni, sia quella, esclusivamente quella di votare con l'opposizione. Cioè, qualsiasi argomento viene votato in Parlamento, no? Di conseguenza l'unica soluzione per dire la sua su certi argomenti è quella di votare con l'opposizione. Questo eviterebbe che i governi cadessero. Il pragmatismo del salvare il governo. Ma certamente sì. Va bene, è stato chiarissimo, Giorgio. Professor Curreri, le voglio chiedere questo. Lei ha anche fatto una proposta. Dice, perché i partiti, come fanno in Spagna, per esempio, non sottoscrivono un patto antitransfughismo, cioè non candidiamo chi ha cambiato casacca in una legislatura, però esatto. È una questione così di un invito, cari partiti, pensateci. Però guardi, questa potrebbe essere una delle soluzioni, sarebbe una soluzione auspicabile, perché proverrebbe da una autolimitazione dei partiti, anche come dire, per evitare quella indignazione di comodo a cui faceva riferimento il senatore Sardelli, cioè il fatto che quando i parlamentari vengono a me sono degli convertiti nella via di Damasco, quando invece abbandonano il mio schieramento sono mercenari. Dei mercenari. Certo. Allora, questa potrebbe essere una soluzione, ma ce ne sono anche altre, come dire, delle altre vie di mezzo tra il bianco e il nero. Per esempio, obbligare i gruppi parlamentari a corrispondere alle liste dei partiti. Lei giustamente ricordava il gruppo dei responsabili, che comunemente, giornalisticamente, è chiamato tale. Però vorrei ricordare ai nostri radioascoltatori che il gruppo dei responsabili, come sottotitolo, si chiama Noi Sud, Libertà ed Autonomia, Popolari d'Italia Domani, PID, Movimento di Responsabilità Nazionale, MRN, Azione Popolare, Alleanza di Centro, ADC, La Discussione. Questo non è un gruppo, questo è una macedonia di persone che si sono creati dei movimenti politici autonomi e si sono messi insieme. Allora, ripristiniamo una regola di coerenza politica: il gruppo corrisponde alla lista del partito perché è la lista che viene votata. Poi c'è un'altra proposta che è stata depositata, a cui io ho collaborato, del senatore Della Seta, che prevede per esempio che in caso in cui il parlamentare cambi di gruppo non possa aderire ad altro gruppo, ma deve passare al gruppo misto, non perde il mandato, però certamente non può fare sfare tutto quello che vuole, come purtroppo oggi avviene. Insomma, proposte molto interessanti. Io non so se voglio sentire Mario da Prato per concludere, ce la facciamo. Mario, buongiorno. Sì, buongiorno. Dica. È solo che la mia riflessione viene che stiamo perdendo il lume per guardare nella notte. Spiego meglio: nella Costituzione, all'articolo 67, è scritto chiaramente. L'abbiamo citato in apertura, il vincolo di mandato. Non c'è scritto chiaramente: ogni parlamentare rappresenta. Sì. Allora, non c'è scritto ogni partito. Per cui, se ci fosse scritto ogni partito, noi dovremmo consegnare ai partiti le decisioni della nostra vita. Noi invece, il problema nostro sostanzialmente è che con questo sistema elettorale diventa un problema. Perché? Perché, perché sono nominati. Questo l'abbiamo un po' sviscerato. Ma secondo lei, quindi, un parlamentare deve dimettersi? Dovrebbe, non per legge, no, ma dovrebbe per opportunità dimettersi o no, Mario? Qui di mezzo questa legge elettorale. Dobbiamo avere un maggioritario nominale dove si sceglie un parlamentare sul territorio. E anche la storia del Senato e della Regione è una presa per in giro, perché a Prato, da dove siamo, è evidente, ci sono tre parlamentari lì, conosciamo nel territorio, andiamo a tirargli il cravattino. Comunque, Mario, la questione rimane. Io mi devo fermare. Mario Aiello del Messaggero, l'onorevole Luciano Sardelli, capogruppo di Iniziativa Responsabile, e il professor Salvatore Curreri, che insegna diritto costituzionale a Enna, grazie per essere stati con noi, con Alessandro Longoni, Elisabetta Fusconi in redazione e Peter Bescapè, l'Alpino, in regia. Vi diamo appuntamento a lunedì, e su Facebook anche 24 mattino, e lunedì invece alle 7:20.